Valutato con il modello delle Nazioni Unite, il TTIP appare favorire la disintegrazione economica dell'Europa piuttosto che la sua integrazione, sia da un punto di vista commerciale che economico e sociale. Firma per fermare il TTIP. Buona domenica 8 maggio da Giorgio Pagano per il consueto appuntamento con Traslimmel. Questa settimana siamo partiti con questo avvio di raccolta firme, come ricorderete, che ci ha portato poi a prestigioso risultato di averne raccolte oltre 3 milioni e mezzo in tutta Europa con l'organizzazione europea di Stop TTIP, e l'abbiamo rilanciata perché proprio questa settimana, esattamente questo sabato, c'era appunto una manifestazione nazionale contro il TTIP, di cui vi lascio peraltro alle parole dello spot che per l'occasione era stato preparato. Roma, 7 maggio, ore 14, Piazza della Repubblica. Manifestazione nazionale Stop TTIP per difendere ambiente, agricoltura, servizi pubblici e Made in Italy dalla minaccia del TTIP, l'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Oltre 300 organizzazioni in piazza per dire no all'abbattimento delle tutele, dei diritti civili e della sicurezza alimentare. Sabato 7 maggio a Roma partecipa anche tu. Tutte e tutti insieme possiamo fermarlo. Vedremo durante la prossima settimana gli effetti di questa manifestazione, magari riproponendo l'intervista con il nostro esperto Jeronim Capaldo, col quale ricorderete abbiamo affrontato molto in profondità i capisaldi econometrici sui quali era stato studiato l'intero assetto del TTIP. Ovviamente rispetto ad allora molte cose si sono aggiunte, non ultima quello dell'uscita dai cassetti segreti degli accordi sotto banco che stanno facendo gli Stati Uniti d'America con questa Europa colonia, protettorato USA, e invece completamente ferma rispetto all'unificazione e al processo di unificazione, sempre più tra l'altro arroccata. E proprio di questo abbiamo modo di parlare oggi, perché manderemo il discorso dedicato interamente all'Europa in relazione al premio Carlo Magno ricevuto dal Santo Padre proprio il venerdì 6 maggio, a proposito del quale peraltro la Mogherini invece ha replicato con un articolo sull'Avvenire, di cui riportiamo i passi più interessanti, per non dire essenziali. L'articolo era Mogherini, rifondare l'Europa dalle parole di Papa Francesco. Ogni qualvolta che Papa Francesco si rivolge ai nostri parlamentari, alle nostre istituzioni, è accolto da applausi scroscianti. Ma applaudire non basta per chi ha un ruolo istituzionale in Europa. Ci vuole il coraggio di ascoltare davvero il messaggio del Papa e di tradurlo in gesti concreti. Quando Papa Bergoglio ha parlato dell'Europa come di una nonna, ha usato parole insieme tenere e severe. Solo chi tiene all'Europa può nutrire alte aspettative nei confronti della nostra Unione. È arrivato il momento di una rifondazione dell'Europa, ha detto Francesco quando gli è stato annunciato che avrebbe ricevuto il premio Carlo Magno. Ma oggi dove sono uno Schuman o un Adenauer? 70 anni dopo i padri fondatori, l'Europa ha bisogno di una generazione di madri e padri rifondatori. Non sarà facile, ma credo che nessuna persona di buona volontà possa ignorare l'appello di Bergoglio. E poi passo alla fine, che è l'aspetto che più mi interessa, soprattutto per le contraddizioni della Mogherini, di cui parlerò immediatamente dopo. È arrivato il momento di smettere di guardare al passato e di concentrarci sulle nostre responsabilità per il presente e il futuro. È ora di smetterla di lamentarci per il declino del nostro continente e di cominciare invece a giocare un ruolo di primo piano verso un nuovo sistema internazionale. Papa Francesco ha chiesto all'Europa di comportarsi da vera unione, lavorando per la pace sullo scenario globale. Non ci sarà rifondazione dell'Europa se non investiamo in questo progetto le nostre energie migliori. Ecco, proprio a questo la mia replica è legata al fatto che la Mogherini ha ricevuto questa lunga lettera firmata, oltre che da Marco Pannella, da me, rispetto alla campagna sulla lingua comune della specie umana. Ebbene, nemmeno il degnarsi di una risposta o addirittura di farci rispondere da qualcuno del suo staff, peraltro contattato da noi proprio mentre eravamo a New York, è arrivato. Questo per dire le contraddizioni e le facce di bronzo che sempre di più genera questa Europa, al di là poi delle parole. Bene, ma spero che questo non sia anche l'effetto che avranno anche le parole, o per meglio dire la lettera spedita alla Presidente della Camera, Laura Boldrini, circa il suo forte impegno federalista nei confronti degli Stati Uniti d'Europa, e che ha partorito poi un incontro con il consigliere politico, l'onorevole Carlo Leoni, la settimana scorsa, ossia il 27 aprile, a seguito delle quali mi sono permesso anche di scrivere poche righe di nuovo alla Boldrini, oltre che per conoscenza allo stesso Carlo Leoni, in relazione al fatto che il 9, come sapete, il 9 maggio è la classica festa dell'Europa. Gentile Presidente, ho scritto, la pregherei, sempre in attesa di poterle parlare personalmente, di cogliere l'occasione della giornata dell'Europa per sollevare o quantomeno accennare alla questione della lingua federale europea. È di fatto e di diritto inaccettabile che persone e bambini dei paesi più poveri del mondo, come il Congo o il Bangladesh, e persone e bambini più ricchi della società britannica o americana non abbiano una seconda lingua insieme, e che, anzi, i primi vengono assoggettati ad apprendere l'inglese, defraudati quindi sia di risorse materiali necessarie all'apprendimento di quella lingua, che mentali, in quanto energie tolte all'approfondimento e all'irrobustimento della nella propria lingua madre, come della cultura del proprio paese, cosa che è ancor più inaccettabile se la nazionalizzazione linguistica inglese viene tollerata e favorita non in un contesto onusiano, meno pervasivo, bensì nell'Unione Europea e persino dalle principali cariche di uno Stato membro, che dovrebbe rivendicare pari diritti e pari opportunità per i propri cittadini. Nel corso, purtroppo, di soli 15 minuti con Carlo Leoni, il 27 aprile, ho avuto modo brevemente di prospettare i termini di messa in discussione della monarchia linguistica inglese in Europa, lasciandogli 5 testi importanti per la messa in discussione dell'esercizio di tale monopolio linguistico, che di fatto corrisponde a una vera e propria colonizzazione. 2 in relazione agli aspetti politici della colonizzazione anglofona, americanizzazione e inglesizzazione come processi di occupazione globale, e l'imperialismo linguistico inglese continua dell'inglese Robert Philipson, e 3 in relazione agli effetti economici di tale colonizzazione linguistica. I costi della non comunicazione linguistica europea del Nobel per l'economia Zeltan, l'insegnamento delle lingue straniere come politica pubblica dell'economista svizzero Gran, in cui emerge come uno scenario equo esperanto faccia risparmiare a tutti gli Stati membri oltre 25 miliardi di euro l'anno, e gli aspetti economici della disuguaglianza linguistica di Aaron Lukács, in cui si evidenzia come la mancanza di pari opportunità per motivi linguistici costa a ciascun cittadino europeo non anglofono circa 900 euro l'anno. Sperando voglia cogliere tale opportunità, anche in relazione al suo forte impegno per il federalismo europeo, rimango a disposizione per qualsivoglia necessità, con i miei più distinti saluti, Giorgio Pagano, coordinatore della campagna per la lingua comune della specie umana. Ed ora beamoci in tutti i sensi, devo dire, del discorso per il premio Carlo Magno pronunciato da Papa Bergoglio. Buon ascolto. Ogni settimana scompaiono 2 lingue, mentre l'inglese diventa sempre più forte. L'era Onlus si batte per la democrazia linguistica internazionale. Aiutaci a difendere anche la tua lingua. Aiutaci a difendere la tua identità. Gli altri ti chiedono di salvare i corpi, noi di salvare anche le menti. Donaci il tuo 5 per 1000. Scrivi il nostro codice fiscale 97104369587 e firma l'apposito spazio nella tua dichiarazione dei redditi. Illustri ospiti, vi porgo il mio cordiale benvenuto e vi ringrazio per la vostra presenza. Sono grato in particolare ai signori Marcin Philippe Jürgen Lindner, Martin Schütz, Jean-Claude Juncker e Donald Tusk per le loro cortesi parole. Desidero ribadire la mia intenzione di offrire il prestigioso premio di cui vengo onorato per l'Europa. Non compiamo infatti un gesto celebrativo, cogliamo piuttosto l'occasione per auspicare insieme uno slancio nuovo e coraggioso per questo amato continente. La creatività, l'ingegno, la capacità di rialzarsi e di uscire dai propri limiti appartengono all'anima dell'Europa. Nel secolo scorso essa ha testimoniato all'umanità che un nuovo inizio era possibile. Dopo anni di tragici scontri culminati nella guerra più terribile che si ricordi, è sorta, con la grazia di Dio, una novità senza precedente della storia. Le ceneri delle macerie non poterono estinguere la speranza e la ricerca dell'altro, che arsero nel cuore dei padri fondatori del progetto europeo. Essi gettarono le fondamenta di un baluardo di pace, di un edificio costruito da stati che non si sono uniti per imposizione, ma per la libera scelta del bene comune, rinunciando per sempre a fronteggiarsi. L'Europa, dopo tante divisioni, ritrovò finalmente se stessa e iniziò a edificare la sua casa. Questa famiglia di popoli, lodevolmente diventata nel frattempo più ampia, in tempi recenti sembra sentire meno proprie le mura della casa comune, talvolta innalzate scostandosi dall'illuminato progetto architettato dai padri. Quell'atmosfera di novità, quell'ardente desiderio di costruire l'unità, paiono sempre più spenti. Noi, figli di quel sogno, siamo tentati di cedere ai nostri egoismi, guardando al proprio utile e pensando di costruire recinti particolari. Tuttavia, sono convinto che la rassegnazione e la stanchezza non appartengono all'anima dell'Europa e che anche le difficoltà possono diventare promotrici potenti di unità. Nel Parlamento europeo mi sono permesso di parlare di Europa nonna. Dicevo agli eurodeputati che da diverse parti cresceva l'impressione generale di un'Europa stanca e invecchiata, non fertile e vitale, dove i grandi ideali che hanno ispirato l'Europa sembrano aver perso forza attrattiva. Un'Europa decaduta che sembra abbia perso la sua capacità generatrice e creatrice. Un'Europa tentata di voler assicurare e dominare spazi più che generare processi di inclusione e trasformazione. Un'Europa che si va trincerando invece di privilegiare azioni che promuovano nuovi dinamismi nella società. Dinamismi capaci di coinvolgere e mettere in movimento tutti gli attori sociali, gruppi e persone nella ricerca di nuove soluzioni ai problemi attuali, che portino frutto in importanti avvenimenti storici. Un'Europa che lungi da proteggere spazi si renda madre generatrice dei processi. Che cosa ti è successo, Europa umanistica, paladina dei diritti dell'uomo, della democrazia e della libertà? Che cosa ti è successo, Europa terra di poeti, filosofi, artisti, musicisti, letterati? Che cosa ti è successo, Europa madre di popoli e nazioni, madre di grandi uomini e donne che hanno saputo difendere e dare la vita per la dignità dei loro fratelli? Lo scrittore Elie Wiesel, sopravvissuto ai campi di sterminio nazisti, diceva che oggi è capitale realizzare una trasfusione di memoria. È necessario fare memoria, prendere un po' di distanza dal presente per ascoltare la voce dei nostri antenati. La memoria non solo ci permetterà di non commettere gli stessi errori, ma ci darà accesso a quelle acquisizioni che hanno aiutato i nostri popoli ad attraversare positivamente gli incroci storici che andavano incontrando. La trasfusione della memoria ci libera da quella tendenza attuale e spesso più attraente di fabbricare in fretta sulle sabbie mobili dei risultati immediati che potrebbero produrre una rendita politica facile, rapida ed effimera, ma che non costruiscono la pienezza umana. A tal fine ci farà bene evocare i padri fondatori dell'Europa. Essi seppero cercare strade alternative, innovative, in un contesto segnato dalle ferite della guerra. Essi ebbero l'audacia non solo di sognare l'idea di Europa, ma osarono trasformare radicalmente i modelli che provocavano soltanto violenza e distruzione. Osarono cercare soluzioni multilaterali ai problemi che poco a poco diventavano comuni. Robert Schuman, in quello che molti riconoscono come l'atto di nascita della prima comunità europea, disse: «L'Europa non si farà in un colpo solo, né attraverso una costruzione di insieme. Essa si farà attraverso realizzazioni concrete, creante anzitutto una solidarietà di fatto». Proprio ora, in questo nostro mondo dilaniato e ferito, occorre ritornare a quella solidarietà di fatto, alla stessa generosità concreta che seguì il secondo conflitto mondiale, perché, proseguiva Schuman, la pace mondiale non potrà essere salvaguardata senza sforzi creatori che siano all'altezza dei pericoli che la minacciano. I progetti dei padri fondatori, araldi della pace e profeti dell'avvenire, non sono superati. Ispirano oggi più che mai a costruire ponti e a battere muri. Sembrano esprimere un accorato invito a non accontentarsi di ritocchi cosmetici o di compromessi tortuosi per correggere qualche trattato, ma a porre coraggiosamente basi nuove, fortemente radicate, come affermava Alcide De Gasperi, tutti egualmente animati dalla preoccupazione del bene comune delle nostre patrie europee, nella nostra patria Europa. Ricominciare senza paura un lavoro costruttivo che esige tutti i nostri sforzi di paziente e lunga cooperazione. Questa trasfusione della memoria ci permette di ispirarci al passato per affrontare con coraggio il complesso quadro multipolare dei nostri giorni, accettando con determinazione la sfida di aggiornare l'idea d'Europa. Un'Europa capace di dare alla luce un nuovo umanesimo basato su tre capacità. La capacità di integrare, la capacità di dialogare e la capacità di generare. Capacità di integrare. Erich Scrivara, nella sua magnifica opera L'idea d'Europa, ci sfida a pensare la città come un luogo di convivenza tra varie istanze e livelli. Egli conosceva quella tendenza riduzionistica che abita in ogni tentativo di pensare e sognare il tessuto sociale. La bellezza radicata in molte delle nostre città si deve al fatto che sono riuscite a conservare nel tempo le differenze di epoche, di nazioni, di stili, di visioni. Basta guardare l'inestimabile patrimonio culturale di Roma per confermare ancora una volta che la ricchezza e il valore di un popolo si radica proprio nel saper articolare tutti questi livelli in una sana convivenza. I riduzionismi e tutti gli intenti uniformanti, lungi dal generare valore, condannano i nostri popoli a una crudele povertà, quella dell'esclusione. E lungi dal apportare grandezza, ricchezza e bellezza, l'esclusione provoca viltà, ristrettezza e brutalità. Lungi dal dare nobiltà allo spirito, gli apporta meschinità. Le radici dei nostri popoli, le radici dell'Europa, si andarono consolidando nel corso della sua storia, imparando a integrare in sintesi sempre nuove le culture più diverse e senza apparente legame tra loro. L'identità europea è sempre stata un'identità dinamica e multiculturale. L'attività politica sa di avere tra le mani questo lavoro fondamentale e non rinviabile. Sappiamo che il tutto è più delle parti e anche della loro semplice somma, per cui si dovrà sempre lavorare per allargare lo sguardo, per riconoscere un bene più grande che porterà benefici a tutti noi. Siamo invitati a promuovere un'integrazione che trova nella solidarietà il modo in cui fare le cose, il modo in cui costruire la storia. Una solidarietà che non può mai essere confusa con l'elemosina, ma come generazione di opportunità perché tutti gli abitanti delle nostre città e di tante altre città possano sviluppare la loro vita con dignità. Il tempo ci sta insegnando che non basta il solo inserimento geografico delle persone, ma la sfida è una forte integrazione culturale. In questo modo la comunità dei popoli europei potrà vincere la tentazione di ripiegarsi su paradigmi unilaterali e di avventurarsi in colonizzazioni ideologiche. Riscoprirà piuttosto l'ampiezza dell'anima europea, nata dall'incontro di civiltà e popoli, più vasta degli attuali confini dell'Unione e chiamata a diventare modello di nuove sintesi e di dialogo. Il volto dell'Europa non si distingue, infatti, nel contrapporsi ad altri, ma nel portare impressi i tratti di varie culture e la bellezza di vincere le chiusure. Senza questa capacità di integrazione, le parole pronunciate da Konrad Adenauer nel passato risuoneranno oggi come profezia del futuro. Il futuro dell'Occidente non è tanto minacciato dalla tensione politica quanto dal pericolo della massificazione, della uniformità del pensiero e del sentimento. In breve, da tutto il sistema di vita, dalla fuga dalla responsabilità, con l'unica preoccupazione per il proprio io. Capacità di dialogo. Se c'è una parola che dobbiamo ripetere fino a stancarci è questa: dialogo. Siamo invitati a promuovere una cultura del dialogo, cercando con ogni mezzo di aprire istanze affinché questo sia possibile e ci permetta di ricostruire il tessuto sociale. La cultura del dialogo implica un autentico apprendistato, un'ascesi che ci aiuti a riconoscere l'altro come un interlocutore valido, che ci permetta di guardare lo straniero, il migrante, l'appartenente a un'altra cultura come un soggetto da ascoltare, considerato e apprezzato. È urgente per noi oggi coinvolgere tutti gli attori sociali nel promuovere una cultura che privilegi il dialogo come forma di incontro, portando avanti la ricerca di consenso e di accordi, senza però separarla dalla preoccupazione per una società giusta, capace di memoria e senza esclusioni. La pace sarà duratura nella misura in cui armiamo i nostri figli con le armi del dialogo. Insegniamo loro la buona battaglia dell'incontro e della negoziazione. In tal modo potremo lasciare loro in eredità una cultura che sappia delineare strategie non di morte ma di vita, non di esclusione ma di integrazione. Questa cultura del dialogo, che dovrebbe essere inserita in tutti i curriculum scolastici come asse trasversale delle discipline, aiuterà ad inculcare nelle giovani generazioni un modo di risolvere i conflitti diverso da quello a cui li stiamo abituando. Oggi ci urge poter realizzare coalizioni non più solamente militari o economiche, ma culturali, educative, filosofiche, religiose. Coalizioni che mettano in evidenza che dietro molti conflitti è spesso in gioco il potere di gruppi economici. Coalizioni capaci di difendere il popolo dall'essere utilizzato per fini impropri. Armiamo la nostra gente con la cultura del dialogo e dell'incontro. Capacità di generare. Il dialogo e tutto ciò che esso comporta ci ricorda che nessuno può limitarsi ad essere spettatore né mero osservatore. Tutti, dal più piccolo al più grande, sono parte attiva della costruzione di una società integrata e riconciliata. Questa cultura è possibile se tutti partecipiamo alla sua elaborazione e costruzione. La situazione attuale non ammette meri osservatori di lotte altrui. Al contrario, è un forte appello alla responsabilità personale e sociale. In questo senso, i nostri giovani hanno un ruolo preponderante. Essi non sono il futuro dei nostri popoli, sono il presente, sono quelli che già oggi, con i loro sogni, con la loro vita, stanno forgiando lo spirito europeo. Non possiamo pensare al domani senza offrire loro una reale partecipazione come agenti di cambiamento e di trasformazione. Non possiamo immaginare l'Europa senza renderli partecipi e protagonisti di questo sogno. Ultimamente ho riflettuto su questo aspetto e mi sono chiesto: come possiamo fare partecipi i nostri giovani di questa costruzione quando li priviamo di lavoro, di lavori degni che permettano loro di svilupparsi per mezzo delle loro mani, della loro intelligenza e delle loro energie? Come pretendiamo di riconoscere ad essi il valore di protagonisti quando gli indici di disoccupazione e sottooccupazione di milioni di giovani europei sono in aumento? Come evitare di perdere i nostri giovani che finiscono per andarsene altrove in cerca di ideali e senso di appartenenza, perché qui, nella loro terra, non sappiamo offrire loro opportunità e valori? La giusta distribuzione dei frutti della terra e del lavoro umano non è mera filantropia. È un dovere morale. Se vogliamo pensare le nostre società in un modo diverso, abbiamo bisogno di creare posti di lavoro dignitoso e ben remunerato, specialmente per i nostri giovani. Ciò richiede la ricerca di nuovi modelli economici più inclusivi ed equi, non orientati al servizio di pochi, ma al beneficio della gente e della società. E questo ci chiede il passaggio da un'economia liquida a un'economia sociale. Penso, ad esempio, all'economia sociale di mercato, incoraggiata anche dai miei predecessori. Passare di un'economia che punta al reddito e al profitto in base alla speculazione e al prestito a interesse, ad un'economia sociale che investa sulle persone, creando posti di lavoro e qualificazione. Dobbiamo passare di un'economia liquida che tende a favorire la corruzione come mezzo per ottenere profitti a un'economia sociale che garantisce l'accesso alla terra, al tetto per mezzo del lavoro, come ambito in cui le persone e le comunità possano mettere in gioco molte dimensioni della vita: la creatività, la proiezione nel futuro, lo sviluppo delle capacità, l'esercizio dei valori, la comunicazione con gli altri, un atteggiamento di adorazione. Perciò la realtà sociale del mondo di oggi, al di là degli interessi limitati delle imprese e di una discutibile razionalità economica, esige che si continui a perseguire quale priorità l'oggettivo dell'accesso al lavoro per tutti. Se vogliamo mirare a un futuro che sia dignitoso, se vogliamo un futuro di pace per le nostre società, potremo raggiungerlo solamente puntando sulla vera inclusione, quella che dà il lavoro dignitoso, libero, creativo, partecipativo e sociale. Questo passaggio da un'economia liquida a un'economia sociale non solo darà nuove prospettive e opportunità concrete di integrazione e inclusione, ma ci aprirà nuovamente la capacità di sognare quell'umanesimo di cui l'Europa è stata culla e sorgente. La rinascita di un'Europa affaticata, ma ancora ricca di energie e di potenzialità, può e deve contribuire la Chiesa. Il suo compito coincide con la sua missione, l'annuncio del Vangelo, che oggi più che mai si traduce soprattutto nell'andare incontro alle ferite dell'uomo, portando la presenza forte e semplice di Gesù, la sua misericordia consolante e incoraggiante. Dio desidera abitare tra gli uomini, ma può farlo solo attraverso uomini e donne che, come i grandi evangelizzatori del continente, siano toccati da Lui e vivano il Vangelo senza cercare altro. Solo una Chiesa ricca di testimoni potrà ridare l'acqua pura del Vangelo alle radici dell'Europa. In questo, il cammino dei cristiani verso la piena unità è un grande segno dei tempi, ma anche l'esigenza urgente di rispondere all'appello del Signore perché tutti siano una sola cosa. Con la mente e con il cuore, con speranza e senza vane nostalgie, come un figlio che ritrova nella madre Europa le sue radici di vita e di fede, sogno un nuovo umanesimo europeo. Un costante cammino di umanizzazione, cui servono memoria, coraggio, sana e umana utopia. Sogno un'Europa giovane, capace di essere ancora madre, una madre che abbia vita perché rispetta la vita e offre speranze di vita. Sogno un'Europa che si prende cura del bambino, che soccorre come un fratello il povero e che arriva in cerca di accoglienza perché non ha più nulla e chiede riparo. Sogno un'Europa che ascolta e valorizza le persone malate e anziane perché non siano ridotte a improduttivi oggetti di scarto. Sogno un'Europa in cui essere migrante non è delitto, bensì un invito a un maggior impegno con la dignità di tutto l'essere umano. Sogno un'Europa dove i giovani respirano l'aria pulita dell'onestà, amano la bellezza della cultura e di una vita semplice, non inquinata dagli infiniti bisogni del consumismo, dove sposarsi e avere figli sono una responsabilità e una gioia grande, non un problema dato dalla mancanza di lavoro sufficientemente stabile. Sogno un'Europa delle famiglie, con politiche veramente effettive, incentrate sui volti più che sui numeri, sulle nascite dei figli più che sull'aumento dei beni. Sogno un'Europa che promuove e tutela i diritti di ciascuno senza dimenticare il dovere verso tutti. Sogno un'Europa di cui non si possa mai dire che il suo impegno per i diritti umani è stato